Non davanti ai bambini, dicevano una volta nelle pochade familiari le mogli o i mariti fedifraghi al coniuge che cominciava a lamentarsi o accusare. E non davanti ai bambini, implora il nostro Berlusconi. Sposo o amante tradito di un paese che lo ha votato, ma evidentemente non gli vuole bene. Non si decide ad ammettere quanto preclave siano le sue virtù. E non è solo lui, non è solo lui che dice ai giornalisti che è stufo, che va avanti solo per senso di responsabilità, che è stanco di tornare a casa e trovare i suoi figli in lacrime per come viene dipinto sulle piazze. Testuale del Corriere della Sera di giovedì 17. Lo assicura anche la cosiddetta Velina Rossa, che pare sia un bollettino quotidiano trasmesso non so bene da chi, da Montecitorio, in cui si legge: pare che nella cerchia dei suoi affetti più cari gli si consigli addirittura di abbandonare quel territorio politico rivelatosi tanto più infido di quanto pensasse all'inizio, il che dimostra come tra i bambini di Berlusconi e quelle che il loro papà chiama sprezzantemente le piazze, in fondo c'è molta più consonanza di quanto non si potrebbe pensare. Ma scherzi a parte, questa storia dei bambini di Berlusconi ha colpito parecchi. Quasi tutti ci hanno scherzato un po' su. C'è persino chi, come Arrigo Levi sul Corriere della Sera del giorno dopo, che ha fatto finta di prenderlo sul serio, consigliandogli, se vuole essere un vero statista, di resistere con spirito impavido alle lacrime dei pargoli. Craxi, ci assicura Levi con apparente cognizione di causa, non ha mai deflettuto dalla sua via per quanto disperatamente potesse piangere Bobo. E a tutti forse così è sfuggito il vero interesse di quel riferimento del nostro Presidente del Consiglio, che come tutta la sua carriera politica prepolitica dimostra, è provvisto, oltre che di una straordinaria faccia di bronzo e di un fortissimo pelo sullo stomaco, e figuriamoci se si lascia turbare dai pianti filiali, ma dei suoi bambini, di sua moglie, della sua famiglia, di una delle sue due famiglie, almeno la prima la lascia un po' nell'ombra, continua a parlare. E questo in fondo, non so se l'avete notato, è una relativa novità nella vita politica italiana. Non è mai successo che le famiglie dei grandi abbiano fatto audience. Andreotti ha dominato per 40 anni la vita politica nazionale e alzi la mano chissà qualcosa di sua moglie e di eventuali figli o nipoti. Forlani, sarà sposato Forlani, chi se ne frega in definitiva. Una volta esistevano dei settimanali, il mitico Oggi per esempio, che per decenni hanno insistito nel pubblicare gruppi di famiglia dei nostri politici, ma andavano appunto malissimo. In genere il pubblico italiano è molto più informato su nomi, carattere e abitudini della moglie e dei figli del Presidente degli Stati Uniti che di quelli del capo del suo governo. Craxi faceva una parziale eccezione, ma appunto il modello è più o meno lo stesso. E non devo essere io a spiegarvi che Berlusconi, come in parte Craxi prima di lui, è un uomo d'immagine, e di quella sua immagine fa parte la sua vita privata. Se ne parla in continuazione, se spiega dei giornalisti attoniti di aver passato la serata facendo studiare ai bambini la poesia a memoria e la recita lui stesso a controprova, se si fa fotografare o riprendere in casa sua, in una delle sue molte case, in tenuta informale, in maglione, in pantaloni da riposo, con la moglie, con i figlioletti soli o in gruppo abbracciati al collo, non lo fa per l'ammollimento cerebrale o per vanità. Lo fa perché è convinto, a torto o a ragione, qua non importa, che questo atteggiamento giovi a stabilire un rapporto qualsiasi con il Paese. Anche se l'Italia, in teoria, è ancora una repubblica parlamentare, lui agisce come il leader di una democrazia presidenziale tipo statunitense, no? Che dal rapporto con l'opinione pubblica, senza mediazioni partitiche o ideologiche, trae l'unica validificazione e che all'opinione pubblica offre dei valori che sono ostentatamente non politici. Le sue capacità imprenditoriali, per esempio, o quella altrettanto difficile, altrettanto rara e preziosa di coltivare con pari successo il campo degli affetti familiari. Solo che naturalmente la politica esiste e lui è comunque un uomo politico, anche se l'unica argomentazione politica alla sua portata è un lamento sulla nequizia degli avversari. Negli stati presidenziali seri esiste tutto un sistema complicatissimo di contrappesi e di garanzie di cui noi siamo assolutamente privi e continueremo ad esserlo. E poi Berlusconi non è Clinton, lui non si gioca la carriera su un voto popolare diretto sul suo nome. Tecnicamente è un leader parlamentare, alla guida di una coalizione, anzi di due coalizioni. più o meno incernierate l'una con l'altra, ma come i suoi comportamenti politici o non politici dimostrano, questo ruolo gli sta stretto. Visto che riesce benissimo a fare a meno di un partito, probabilmente non vede perché non dovrebbe fare a meno di un Parlamento. Ecco, non trascuriamo i bambini di Berlusconi. Sono dei soggetti politici importanti perché in loro nome si sta giocando la trasformazione occulta del nostro sistema costituzionale, e se di qualche trasformazione quel sistema forse ha anche bisogno, noi certamente bisogno non abbiamo che sia una trasformazione occulta. Noi vogliamo sapere tutto, anche di fronte ai bambini. Queste strade come lampo che brillerà sopra il mare. Tieni il tuo spirito più in alto, che i nostri occhi vedano bene questi anni scuri di cobalto, questi anni luminosi.